Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La probabilità di sopravvivere sotto una valanga è più del 90% nei primi 5 minuti. Beh, mai tempo fu calcolato con più giudizio. Quando vedo un guanto che spazzola gli ultimi strati di neve davanti alla mia faccia, sono passati esattamente 5 minuti e l'impressione è che non avrei retto il sesto. Sono Roberto, abito a Milano, ho 47 anni e faccio l'impiegato. Come hobby vado in montagna. Raccontare storie dà diverse possibilità, soprattutto raccontare storie diverse in giorni diversi, di persone diverse. Dà un po' la possibilità, diciamo, quella romantica è quella di fare proprio i pezzi di vita delle altre persone. Poi dà semplicemente la possibilità, quella meno romantica, di intrattenersi, cioè di passare mezz'ora, 45 minuti pensando ad altro, come se fosse una sorta di piccolo film raccontato. E poi dà un'altra possibilità, è quella di sentire una storia e poi confrontarsi, in questo caso lo faccio io, però è come se lo faceste voi, perché quando chiacchiero con le persone che scrivono le storie, insomma, cerco di fare domande come se le faceste un po' tutti voi, un po' tutte le persone che ascoltano. Dicevo appunto, l'ultima possibilità che dà a fare un programma come questo è incontrare persone che sono rimaste sotto una valanga e sono sopravvissute. Quante persone conoscete che sono rimaste sotto una valanga? E soprattutto quante persone conoscete che ne sono venute fuori? Io nessuna. Roberto è la prima persona con cui parlo che ci è rimasto sotto e ne è uscito. Se voi siete rimasti sotto a qualsiasi cosa, non solo a una valanga, parliamo proprio in metafora, non parliamo solo di masse di neve che vi cadono addosso. Se siete stati travolti da qualcosa, ci siete rimasti infoiati e poi però siete riusciti a uscirne, 349 238 6666, altrimenti via Facebook o Twitter. Voi siete qui a R24 Twitter, voi siete qui Radio 24 il profilo Facebook, cliccate su mi piace e siete online insieme a noi. Simona ad esempio mi scrive qui, totalmente fuori di metafora: il mio nonno paterno da giovane, lavorando al porto, rimase travolto dal granone depositato dentro la stiva di una nave. Non so se è un errore oppure sarà un termine. Il granone dentro la stiva di una nave. Chiunque sappia cos'è il granone nella stiva di una nave, 349-238-6666. Dovette rimanere in apnea finché l'aspiratore riuscì a trovarlo, liberandogli la testa. Era un ottimo nuotatore, abituato a rimanere senza respiro per diversi minuti. Questo lo aiutò, però la paura fu tanta e si fece forza per rimanere calmo. Fu molto fortunato. L'aspetto della fortuna è un altro aspetto di cui parleremo con Roberto. 349-238-6666. Rimasti sotto e salvati insomma, ne siete venuti fuori. Vi ricordo che il 27 di giugno, che è tra praticamente meno di due settimane esatte, oggi è giovedì, esattamente tra due settimane, qui alla sede del Sole 24 Ore, a Radio 24, nella sala collina, la sala disegnata da Renzo Piano, che c'ha una collina con delle piante sotto e da una parte una sala teatrale e la mensa dall'altra, lì nella sala collina si terrà lo spettacolo dal vivo, che è l'evento finale con cui chiudiamo il programma ormai da 3 anni, questo è il terzo anno. Sono rimasti pochi posti, per cui liberatevi se volete liberarvi. Il bagarinaggio non è ancora stato adottato perché è tutto gratuito, quindi andate sul sito di Radio 24, andate sulla nostra pagina, voi siete qui, cliccate sul mio faccione in alto a sinistra e iscrivetevi, cliccate invia, stampate, presentatevi alle 9 in punto, magari anche un po' prima, il 27 di giugno, qui nel 2013, qui a Radio 24. Torniamo alla storia di oggi, raccontiamo la storia di Roberto, uno che è rimasto sotto una valanga e l'hanno tirato fuori. Chi disse preferisco avere fortuna che talento percepì l'essenza stessa della vita. Inizia così il film Match Point di Woody Allen. Mentre una palla da tennis colpisce la rete e rotea in aria per un tempo infinito, prima di decidere in quale parte del campo cadere. Certo, il blocco di neve che si stacca proprio quel giorno, proprio in quel momento, proprio in quel punto, non lo posso proprio considerare un evento fortunato. Sarebbe bastato un altro minuto, forse mezzo, e sarei stato altrove. Se solo non mi fossi attardato a sistemarmi la linguetta dello scarpone o se avessi adottato un'andatura un po' meno turistica. D'altro canto però sono qui a scrivere, anche se un po' acciaccato. È solo per un insieme di circostanze talmente fortunate da far pendere il bilancio della giornata decisamente a mio favore. Ecco com'è andata. Il giorno della valanga. Appena ho visto il distacco, che pure all'inizio sembrava cosa da poco, ho cominciato a risalire il versante opposto con tutta la lena possibile. Ma è questione di secondi. Non è che di strada se ne possa fare tanta. Magari in fase di discesa ci si può mettere a uovo e tentare una libera alla Hermann Mayer, ma in salita, con le pelli ai piedi, il raggio d'azione è veramente risibile. Se vi chiedete se ho provato a nuotare, come suggeriscono di fare, la risposta è no. Non ci ho provato. Non sono neanche riuscito a pensare di provarci. L'onda d'urto che precede la massa valanghiva non ha nulla a che vedere con il vento. Lo schiaffo dello spostamento d'aria ti solleva letteralmente, ti fa volare e ti fa atterrare in modo scomposto, e a quel punto è difficile fare qualunque cosa. E poi la valanga, la mia valanga, almeno, non ha niente a che vedere con l'acqua. È come trovarsi all'interno di una gigantesca betoniera. La massa ti avvolge, ti impasta, ti disarticola. Ero in Val Grisanci, Val d'Aosta, stavo facendo un corso di formazione per gli alpinisti del CAI. Ci si accorge subito di quando scende una valanga. È stata una valanga spontanea, quindi non provocata da noi, che però è scesa esattamente quando passavo io. Pensare di riuscire a dominare in qualche modo la situazione è perlomeno illusorio. Ho provato a crearmi una bolla d'aria per poter respirare, ma non ci sono riuscito. Per un attimo ho creduto di avercela fatta. Quando mi sono fermato ce l'avevo l'aria. Poi è arrivato il resto della neve con il suo peso da ippopotamo. E non solo si è ripresa tutti gli spazi disponibili, si è anche piazzato sul mio sterno, rendendomi la respirazione complicata, a prescindere dall'aria disponibile. Alle domande che mi hanno fatto tutti quelli che sanno che sono finito sotto una valanga, cerco di dare una volta per tutta delle risposte. Se si ha cognizione del sopra o del sotto, ad esempio, no, per niente, non avrei mai detto di essere praticamente a testa in giù. Dicono di usare la saliva per orizzontarsi, ma questo ha senso solo se hai a disposizione dello spazio per fare qualcosa. Quando sei imbalsamato in un pilone di cemento, non è che ti serva molto sapere dove sta sopra. Se c'è luce, sì, almeno giurerei di sì. Non che ci sia molto da vedere, ma la mia impressione è che i cristalli di neve davanti ai miei occhi fossero visibili. E poi, se si sentono dei suoni, sì, benissimo anche. Da un metro e mezzo di profondità sentivo tutto quello che si diceva fuori, ma non viceversa, nel senso che fuori non sentivano nulla di quello che urlavo io. E poi, se fa freddo, mi chiedono. Non lo so, probabilmente sì, ma almeno nei primi minuti è l'ultimo dei problemi. Poi, dopo, sì, un freddo maledetto, ma per fortuna ero già fuori. Se mi è passata tutta la vita davanti, no, francamente no. L'impressione è quella di non avere pensato praticamente a niente. Per un po', forse un minuto, ho creduto di essere spacciato, ma non c'è stato molto oltre quella lungimirante osservazione. L'immagine confusa di mia moglie che spiega ai bambini perché papà non tornerà più, con l'assurdo sollievo di non essere io a doverlo fare. E poi ho sentito quel tocco, qualcuno o qualcosa che mi toccava lo scarpone, e lì la certezza immediata che ce l'avrei fatta. In the quiet of a shadow, in the corner of a room, darkness moves upon you like a cloud across the moon. So don't forget to breathe, don't forget to breathe. Roll life is here, no 11th hour reprieve, so don't forget to breathe. E poi da lì tutti gli sforzi si sono concentrati sul stare calmo, sul respirare piano, sul consumare il meno possibile, sullo stare vivo, insomma. Per la proiezione completa della mia vita non c'è stato proprio tempo. E poi l'ultima domanda, se tornerò in montagna dopo questa esperienza. Ecco, questa è la domanda più difficile. Sono talmente lontano dalle condizioni fisiche minime, anche solo per risalire sul Monte San Primo, che non provo nessuna pulsione, né di ritorno né di ritiro. Cosa mi verrà voglia di fare quando potrò farlo, non riesco a immaginarlo. Mi si fa notare che si è trattato di un evento non provocato, del tutto casuale, una vera sfiga, come si suol dire, e che non posso rimproverarmi nessuna negligenza, nessun azzardo. Cosa vera cosa vera in gran parte, insomma. Certo, se avessi scelto di uscire dal traccione e di passare più sulla sinistra, beh, avrei vinto il premio Nobel della premonizione, probabilmente. Ed è solo uno scrupolo di coscienza che di fronte al danno mi porta a interrogarmi sulle scelte improbabili che avrebbero potuto evitarlo. Tuttavia, forse proprio questa valutazione di ineluttabilità mi disturba. Voglio dire, fosse successo mentre, come tante volte, mi assumevo un rischio più o meno calcolato, potrei sempre pensare che con una condotta più prudente sarei in grado di aumentare a mio piacere il livello di sicurezza. Se fai una cazzata, dice il saggio, puoi sempre riprometterti di non cascarci più. Invece mi trovo, come unica consolazione, quella di pensare che una sfiga del genere non può capitarmi due volte. Cosa del tutto falsa, tra l'altro, come il calcolo delle probabilità insegna. Diciamo una gran fortuna nella sfortuna, perché sicuramente il fatto che scenda proprio in quel momento è una gran sfortuna, però il fatto poi di uscire vivo è una gran fortuna sicuramente, per cui più fortunato che sfortunato. Come recitano i sacri testi sull'alta montagna, la probabilità di sopravvivere sotto una valanga è più del 90% nei primi 5 minuti. Ecco, mai tempo fu calcolato con più giudizio. Poi, quando finalmente vedo un guanto che spazzola gli ultimi strati di neve davanti alla mia faccia, sono passati esattamente 5 minuti e la mia impressione è che non avrei retto il sesto. Forse solo una sensazione, nessuno potrà mai dirlo. L'immensa goduria di respirare è solo parzialmente mitigata da un dito che mi viene prontamente infilato in bocca alla ricerca di corpi estranei come da procedura. Pare che la mia prima richiesta sia stata quella di levarsi dai testicoli, non so a chi e non in senso figurato, ma strettamente fisico. Vedo facce di compagni che credevo molto, ma molto più indietro. Avranno preso uno ski lift, penso. Viceversa, non mi spiego come possano essere già qui. E poi il resto è un valzer di scavi archeologici, teli termici, elicotteristi acrobatici, barelle, ambulanze, freddo, felicità, dolore fisico come non mai. Mi concentro sulla linda stanza d'ospedale, linda e calda, dove prima o poi dovrei approdare per un meritato riposo sotto cospicua dose di antidolorifici. Un miraggio per il quale ci vogliono circa 4 ore. In gran parte spese per tirarmi su la temperatura da 31 gradi ai 36 e mezzo. Quando alla fine mi sparano nel calcagno il ferro per la trazione, mi avvisano che mi farà un po' male, ma a me sembra poco più di una puntura di insetto. Ormai ho la soglia del dolore tra Rambo e l'uomo chiamato cavallo. E poi finalmente verso le 4 il sogno si avvera. Sono in una linda e calda stanza di ospedale con un antidolorifico tostissimo da 50 cc appeso alla gruccia della flebo e non sento alcun dolore. Grazie a tutti quelli che al 349-238-6666 mi scrivono che Granone, a proposito del papà di quella che ha scritto, di Simona, che ha scritto che era rimasto sotto il granone nella stiva di una nave, è una forma dialettale che distingue il gran turco dal grano o frumento, Gabri, e poi tutti quelli che mi dicono più o meno la stessa cosa. È arrivato un altro messaggio, quello di Paolo, che dice: mio padre è rimasto sotto una valanga nel 56, sotto le tre cime di Lavaredo, quando era militare. Si è distrutto un braccio ma si è trovato con la testa fuori. Più di un anno di ospedale, ma poi ha vissuto una vita normale. Ah, è ancora vivo. Qualcuno che ha parlato con qualcuno che è sopravvissuto a una valanga, l'abbiamo trovato, è Paolo, non ci ha solo parlato, è suo figlio di fatto, quindi ci ha avuto una relazione. Per me invece è in assoluto la prima volta che parlo con un sopravvissuto a una valanga. Pronto Roberto? Pronto? Come stai? Bene, grazie. Sei fuori? Sono fuori, sono ormai da tempo, sì. A quando risale il tutto? Al 2008. E quanto sei rimasto in ospedale, Roberto? No, in ospedale non tanto, però diciamo acciaccato per parecchio perché mi ero rotto malamente le gambe, quindi diciamo che ci ho messo un annetto prima di tornare a camminare. Ah, non uno scherzo proprio, eh? No, brutte fratture... No. Ci mettono un po' a ripararsi. Quindi a oggi, hai detto, scusami, nel 2008, giusto? 2008. Quindi no, oggi sono a posto. Oggi sei a posto e mi fa piacere. Ma a 5 anni di distanza possiamo rispondere anche all'ultimo quesito, quello del tornerai in montagna, eccetera, eccetera. Ci sei tornato? Ci sono tornato, diciamo, con gli sci poche volte, perché problema, volevo vedere se avevo paura io di andarci, ho provato e questa paura non ce l'ho, paradossalmente non ho nessuna paura, ma la famiglia è rimasta molto traumatizzata, quindi diciamo che andare in montagna con gli sci adesso sarebbe una cosa molto, molto negativa per la famiglia, quindi ci vado in montagna ma non quando c'è la neve. Ah, ma quindi non fai neanche sci da pista? Sci... No, sci da pista sì, certo, sci da pista. Ah, sì, ma, ok. Quello è un'altra cosa. Era la cosa, mi dice come si chiama invece la cosa che stavi facendo, cos'è, sci alpinismo quello? Sci alpinismo. Che consiste, nel, per chi non lo sapesse? Consiste nel salire con delle pelli di foca sotto gli sci, con degli sci particolari ovviamente, e poi quando sei arrivati in cima togliere le pelli e scendere sciando normalmente. Ok, non è il telemark che scendi con le ginocchia piegate? No, non è il telemark perché gli sci sono normali, però diciamo che andiamo in giro anche con quelli che fanno telemark, è la stessa, ambiente, okay, la stessa tipo, okay, di attività. Roberto, tu l'hai veramente descritta benissimo tutta, però mi dici quanto tempo, se riesci a valutarlo, quanto tempo è passato da quando tu hai visto il distacco? Ma chi l'ha visto? L'hai visto tu? Cosa succede quando un gruppo di persone vede una valanga che scende? Si urla? Ci si avvisa? Sì, sì, no, quello te lo posso dire bene perché siccome eravamo in tanti e molti avevano la telecamera a portata di mano, abbiamo anche dei filmati, quindi il tempo di discesa è dell'ordine dei 15 secondi, non di più. È stato molto veloce. Cioè, da quando c'è il distacco a quando sei stato travolto. Ma se, tra l'altro, sembri sotto una valanga in questo momento, Roberto. O stai respirando nel microfono in maniera cospicua. Ah, ok, perfetto. Quindi, in 15 secondi tu ti sei trovato sotto. Sì, più o meno sì. Però, tra l'altro, dicevi che prima ti ha sbattuto in aria. Sì, perché una valanga grossa viene preso dal vento, perché spostando l'aria crea una specie di onda d'urto. Che è molto violenta, però per cui io mi sono accucciato sapendo che sarebbe arrivata, ma non è servita niente, sono comunque volato via. Perché tu eri preparato, giusto? Perché tu stai facendo un corso di alpinismo. Sì, sì, il paradosso è che eravamo proprio lì per fare ricerca valanghe, per esercitarci, diciamo. Beh, insomma, direi che esercitazione fu mai più realistica da questo punto di vista. Esattamente, un autosoccorso ben fatto, come si suol dire. Ma come ti hanno trovato? Fisicamente come ti hanno trovato? Mi hanno trovato, prima tramite l'ARVA, che è questo apparecchio che tutti devono avere in montagna quando c'è la neve, che è un apparecchio ricetrasmittente, okay, che uno ha in trasmissione sempre addosso e in caso di valanga manda un segnale, lo mettono in ricezione e questo aiuta ad avvicinarsi al luogo del valangato. Poi quando uno ha identificato il punto comincia a scavare ovviamente. Lì come a mani avevano, no, avevano... No, esatto, questa è l'altra cosa, una delle cose che non si puntualizza mai abbastanza è l'importanza della pala. Tutti quanti avevamo la pala, perché scavare con le mani i 5 minuti non bastano di sicuro. Perché in 5 minuti hanno scavato 1,5 metri, giusto? Eh sì, anche meno di 5 minuti, perché un po' di tempo va via per cercarmi, quindi certo. Il tempo poi di scavare rimane qualche minuto, 3 minuti. Scusa, l'hai usato proprio di corsa prima, ma il termine esatto è valangato? Sì, cioè tu sei un valangato di fatto. Io sono un valangato, sì. Ma ti senti più un valangato o più un miracolato? Ma entrambe le cose, anche se devo dire che adesso risentendomi alla radio ci vuole molta fortuna, però mi è venuto anche da pensare che bisogna anche un po' cercarsela la fortuna, nel senso che comunque il fatto di essere tutti molto preparati a questo evento ha fatto sì che andasse tutto bene. Beh, indubbiamente, certo. Uno dice, tu dici che non hai pensato a nulla, però immagino che inconsciamente tu ti sia detto, vabbè, se non mi trovano questi, proprio non mi trova nessun altro. Sì, sì, no, è vero, ho pensato che era un paradosso rimanere sotto la valanga proprio in questa occasione, però ero convintissimo che fossero troppo lontani, ero convinto che fossero andati sotto anche gli altri, per cui... Ah, ok, poteva essere una... Tu sei stato l'unico invece ad essere rimasto sotto? Sono stato l'unico, proprio uno è rimasto quasi dentro, ma invece è rimasto appena appena fuori, quindi è riuscito a non farsi travolgere dal gorgo, ed è stato il primo a trovarmi, infatti. Roberto, e poi ti saluto, non ho ancora capito, forse non l'hai capito neanche tu, ti senti più fortunato o più sfigato? Più fortunato, assolutamente, non c'è dubbio. Ti ringrazio molto Roberto, buona giornata. Buona giornata anche a te. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, ciao. Il messaggio più assurdo che è arrivato a proposito di essere travolti è: travolta da un camion pieno di zucchero in Autostrada del Sole. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. È molto molto stretta. la foto che ci ha mandato oggi Roberto e che trovate sul sito di Radio 24, la nostra pagina, la pagina di Voi Siete Qui. È molto stretta, nel senso che è un primo piano, però più che un primo piano credo che l'abbia ritagliata. Sulla fronte, il mento e poco altro si vede dietro. Ha gli occhi quasi orientali, una barba appena appena incolta e una... è sdraiato, credo su una sdraio, perché si vede la parte dietro come se fosse appoggiato in vacanza probabilmente, o potrebbe essere in montagna, potrebbe essere che sta dormendo in un rifugio. Mi piace immaginarmelo così oggi, Roberto. Soccorso, sostantivo maschile. Aiuto prestato a chi si trova in situazioni di pericolo imminente o di grave necessità. Soccorso stradale, soccorso marittimo, soccorso aeronautico, organizzazioni e forme di intervento in caso di incidenti o di panne stradali e di disastri navali o aerei. Posto di pronto soccorso, reparto di un ospedale o ambulatorio in cui si prestano le prime cure e si fanno le prime medicazioni a persone colpite da malore o vittime di incidenti. I mezzi impiegati per un aiuto urgente e le persone destinate a recarlo. Difesa, riparo contro un male. Etimo, derivato di soccorrere. Data, secolo XIII. Parliamo di valanghe, parliamo anche di soccorso oggi, ovviamente. A breve lo faremo con qualcuno che ne sa, perché ha fatto del soccorso la sua vita sostanzialmente. Però arrivano ancora messaggi in metafora e fuori di metafora. Sono rimasto sotto alla cocaina, ma dopo 3 anni sono riuscito a uscirne. Marco, il quarto d'ora più lungo della mia vita, chiuso al buio nella fossa dell'ascensore, in attesa di sentire il rumore delle porte al terzo piano che si chiudono e la partenza per il ritorno al piano interrato. Tullio, aspetta, cerco di tradurre questo messaggio. Tu ti sei ritrovato nell'ascensore bloccato nella fossa, quindi in fondo, però l'ascensore non si muoveva. Hai dovuto aspettare che qualcuno lo chiamasse, giusto? Più di così non ho capito. Sono rimasto fra due frane, fortunatamente non sepolto, Valtellina 89. Fortuna, sì, direi fortuna, e se voluto anche abbastanza raro come caso, quello di avere due frane, non una ma due frane che ti cadono di fianco. Anni fa ho fatto un calco facciale di gesso. Comincia così il messaggio di Lauretta, che scrive: ho fatto un calco facciale di gesso, avevo la tosse e chi mi fece la colata sul volto mi disse di stare fermo per qualche minuto senza muovermi. Lui uscì a fumarsi una sigaretta. Ecco, qui ci sono, diciamo, tutti i sintomi per un messaggio devastante. Tu hai la tosse, stai per fare un calco facciale alla tua faccia, ovviamente in gesso, per una maschera immagino, e questo, quello che te lo fa, esce a fumarsi una sigaretta. Io facevi segno con le mani che non respiravo, inoltre il solletico della tosse non mi dava tregua, riuscii a concentrarmi sulla respirazione contando i battiti fortissimi del cuore. Fui liberato da quella piccola valanga sul viso, ma furono attimi di panico, ci misi qualche ora per calmarmi. 349-238-6666. A proposito di fortuna e di valanghe e di ore, parliamo di tempo, perché davvero quanti, quei 5 minuti di cui parlava Roberto, sono evidentemente 5 minuti entro i quali bisogna, come dice lui, scavare per tirare fuori la persona che è rimasta sotto la valanga. Ma in quanto tempo arrivano i soccorsi? Oggi cerchiamo di capirlo e di fare una chiacchierata più approfondita con il portavoce del Corpo Soccorso Alpino e Speleologico Nazionale, Valerio Zani. Pronto Valerio? Sì, salve, eccomi. Buongiorno, grazie per essere qui Valerio. Possiamo, grazie a voi. Possiamo darci del tu? Assolutamente sì. Magnifico. In quanto tempo arrivate, Valerio? Noi cerchiamo di farlo chiaramente nel più breve tempo possibile. Gioca molto il tempo con cui veniamo allertati, il modo con cui veniamo allertati, la tempestività con cui veniamo allertati, e normalmente riusciamo a raggiungere il punto dell'intervento veramente in pochissimi minuti, che so benissimo per chi essere in difficoltà, ma essere tantissimo, più o meno delle ore, certo, chiaramente. Ma voi venite, dove vi trovate voi, proprio fisicamente? Dove siete quando siete disponibili, immagino, no? Allora, noi siamo disponibili praticamente H24, ovvero 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Che bella, una vitaccia, Valerio. Siamo organizzati in centri operativi e spesso nei centri operativi stazionano fisicamente delle squadre di pronto intervento che nel momento in cui vengono raggiunte dalla chiamata partono immediatamente, spesso con l'ausilio di un elicottero. Ok, quindi c'è un elicottero sempre col pieno, immagino, sempre pronto? Sì, sempre col pieno, sempre col pilota, sempre con lo specialista di volo, sempre con la squadra pronta all'imbarco. Normalmente questi elicotteri fanno capo al Servizio Sanitario Nazionale, quindi al sistema 118, e di fatto sono le centrali operative 118 che ci danno l'ok per la partenza e coordinano un po' tutto l'intervento. Ok, quindi immaginiamo, arriva la chiamata, in quanti salite sull'elicottero? Normalmente l'elicottero vede un equipaggio composto da pilota, specialista, dal tecnico di soccorso alpino, da un infermiere e da un medico, quindi un equipaggio 5 persone. Esattamente, con l'aggiunta, nei momenti particolari dell'anno, anche dell'unità cinofila per l'intervento in valanga. Ok, quindi insomma, quindi col cane anche ovviamente. Esattamente, quindi tutti sull'elicottero, arrivate sul posto, lì cosa fate? Atterrate, non atterrate, vi calate? Se c'è la possibilità di atterrare, atterriamo, perché chiaramente è molto più semplice, ma diversamente, e spesso si verifica, se non c'è la possibilità di mettere l'elicottero a terra, l'elicottero ci cala direttamente sul posto attraverso il vericello, mm-hmm. E quindi lo specialista di volo è in grado di calarci praticamente sul target, sull'obiettivo, sia noi soccorritori che medico e infermiere, e chiaramente anche il cane col proprio conduttore se c'è la necessità di farlo. E a quel punto, vabbè, voi sapete già più o meno cosa è successo, giusto? Perché ve l'hanno... Avete un quadro della situazione? Diciamo che la chiamata, una volta ricevuta, fa scattare una serie di procedure che sono state testate nel corso del tempo e attiva praticamente dei meccanismi che ormai sono consolidati in ognuno di noi. Quindi se la chiamata riguarda una valanga sappiamo bene cosa fare, se riguarda una ricerca altrettanto, se riguarda una persona precipitata o in difficoltà dal punto di vista fisico, ancora. Abbiamo chiaramente tutta una procedura adeguata al momento. Ma in media, so che è un calcolo difficile, ma quanti interventi fai in un anno, Valerio? Io personalmente diciamo qualche decina, il soccorso nazionale in tutta la sua estensione riesce ad arrivare anche a 7.000 interventi all'anno, ormai i numeri più o meno sono questi. Però tipo nell'ultimo anno tu personalmente invece ne hai fatti una decina tra valanghe, precipitati, insomma... Sì, nell'ultimo anno ne ho fatti più o meno una decina, forse qualcosa di più, adesso onestamente non ricordo, anche perché chiaramente siamo distribuiti su tutto il territorio, siamo più o meno 7.000 persone che sono distribuite sul territorio, quindi cerchiamo di dividerci anche i carichi di lavoro per evitare chiaramente di sovraccaricare ognuno di noi. Qual è stato il salvataggio più difficile che ti è capitato di fare? Ma sicuramente i più difficili in genere sono quelli che riguardano le valanghe, perché lì il tempo di intervento è veramente ridottissimo e spesso troviamo delle situazioni al limite, quindi sono quelli che ti rimangono un po' più addosso, un po' più impressi. Quelli che invece ti lasciano un po' più di libertà di movimento, diciamo che vengono anche sopportati diversamente da ognuno di noi. Cioè, nel senso che parliamo di intervento che finisce male, intendi dire? Ma no, beh, diciamo che gli interventi che riusciamo a ricordare con piacere sono quelli che chiaramente si concludono bene. Certo. E sono soprattutto quegli interventi dove il tempo può essere anche un po' più dilatato e non crea grossi problemi né a noi e soprattutto al paziente o comunque alla persona in difficoltà. E a quel punto poi lo portate in un ospedale, in un primo centro d'assistenza? A quel punto l'elicottero imbarca anche il paziente, chiaramente nella maniera corretta, e viene immediatamente trasportato nell'ospedale più vicino o comunque nell'ospedale in grado di ricevere la tipologia di trauma e quindi di trattarlo correttamente. È il medico che stabilisce con la centrale il da farsi. Valerio, com'è che uno decide di fare il soccorso alpino? Ma diciamo che lo decide un po' per vocazione, se posso usare questo termine, un po' perché si confronta da sempre con certe situazioni, un po' perché vuole mettere a disposizione le competenze e le esperienze acquisite agli altri, ecco, un po', diciamo, una sorta di buon samaritano senza voler eccedere nelle terminologie e nei riferimenti. Senti, per chi va in montagna questo comincia un periodo importante, no? L'estate si aprono i rifugi d'alta quota, eccetera, eccetera. Ci puoi dare un consiglio veloce a tutti quelli che hanno voglia di salire in montagna? Tipo due cose da non fare. Allora, da non fare sicuramente sopravvalutarsi e sottovalutare quello che è l'ambiente. Da fare, preparare con attenzione l'uscita e non aver paura a chiedere a chi ne sa qualcosa più di noi, proprio in maniera molto sintetica. Ok, tu dove ti trovi adesso, Valerio? Sei al lavoro, sei a casa? In questo momento sono in un prato illuminato dal sole nella mia zona, io abito nella zona di Ponte di Legno Tonale in Lombardia e quindi in questo momento un'ottima situazione ambientale. Te la stai godendo. Sì. Valerio, ti ringrazio, grazie per la telefonata e grazie per quello che fate ovviamente, grazie. Sembra retorico ma è fondamentale, grazie ancora. Grazie. Salve. Ciao, buona giornata, ciao, grazie. Rimasto chiuso, questa devo dire è la più claustrofobica, rimasto rimasto chiuso in un divano letto a 6 anni, ormai svenuto per asfissia, salvato da un'amichetta di mia sorella di 8 anni che disse a mia mamma: mi è sembrato che Ezio chiamasse aiuto. È inquietante questa cosa, che uno possa rimanere chiuso nel divano letto di casa propria. Grazie a tutti, grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Paolino Corleoni, grazie soprattutto a Roberto per avercela fatta anche a raccontare la sua storia. Anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Silvia e sto a Torre del Lago in provincia di Lucca. La storia di domani è la mia e parla della mia ricetta preferita. Questa è la mia storia e io sono qui.